Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Benissimo. Chi secondo te non crede nei miracoli questo pomeriggio? Ma non lo so, il Torino ci crede secondo me nei miracoli, visto che è la partita più calda che stiamo aspettando. E il Milan deve crederci in vista di Madrid, perché la squadra che abbiamo visto oggi è incoraggiante, e poi non lo so stasera. Io non credo che l'Inter creda nei miracoli. Sarebbe stato un miracolo la terza vittoria consecutiva. Lo dico agli amici interisti, già due volte ci aveva provato, due volte 1-1 la terza partita. Oggi è finita così, Inter-Cagliari. Mi sembra un netto passo indietro, 8-0-0-24-0-0-24. Aspettiamo le telefonate degli amici interisti, magari, che stanno uscendo da San Siro per parlare di questa partita. So che molti tifosi dell'Inter se la sono presi con l'arbitro, io non lo so, però ditecelo, 8-0-0-24-0-0-24. Sai chi conduceva il Festival di Sanremo l'ultima volta che il Toro ha vinto un derby? Era 19 anni fa, e quindi non lo so. Era Pippo Baudo. Io credo assolutamente nei miracoli. Io credo che questa possa essere una domenica chiave, Pier, per la lotta per lo scudetto. Credo che quel meno 6 della Roma ieri metta un po' di pressione, metta un po' di cattivi pensieri alla Juve, ma tu lo sai che io la penso così. Sì, io penso che invece il fattore campo dello Juventus Stadium sia un fattore campo vero, nel senso che non è un derby che si gioca con lo stadio diviso a metà o comunque con una sorta di equilibrio, uno stadio dove la Juve ha il 95% dei posti, dove gli spettatori sono a un centimetro dai giocatori, quindi la Juve è largamente favorita e quello stadio fa la differenza, non a caso di la Juve a 12 su 12. Detto questo, sono d'accordo che ci sono tutti i presupposti perché il Torino possa mettere in difficoltà la Juve, nel senso che è il miglior Torino degli ultimi anni. Sicuramente la vittoria della Roma un po' di pressione la crea, e anche un po' di stanchezza bianconera ultimamente si è vista, quindi che ci possa essere anche questo, io sono d'accordo, ma però secondo me allo Juventus Stadium la Juve rimane la favorita. Sì, ricordati che le grandi serie sono fatte per essere interrotte. 8-0-0-24-0-0-24, prima pagina. Non fosse per il tacco di Palacio nel derby a dicembre, a Tohir potrebbe anche venire il sospetto di essere lui a portare un po' sfortuna. Sbarca a San Siro e a Mazzarri non riesce di mettere insieme la terza vittoria consecutiva. Senza Hernanes, passo indietro in tutto. Gioco, occasioni, risultato. Le finte del giapponese, poi il cross sul secondo palo. Icardi cerca la sponda e poi Rolando! Rolando, il pareggio dell'Inter! Anche senza musichetta di Champions, invece, il Milan di Seedorf va, si parlerà molto dei fischi di Doveri. Intanto però vittoria a Marassi, 13 punti in 6 partite e progetto di rimonta sulla zona Europa avviato. Tarat si abbassa per dare una mano a Honda, poi la palla morbida, la porta è vuota e mette dentro Rami, tutto regolare, Milan sul 2-0. E adesso gli occhi di tutti sono puntati su Juve Toro, sul derby dei 99 punti, dell'orgoglio di Torino, mai così in alto da 19 anni a questa parte. Guarda caso proprio dal 1995, quando il Toro di derby ne vinse 2 su 2. Oggi mezza Italia tifa Juve, l'altra metà cerci e Immobile, soprattutto dalle parti di Roma. È un'annata importante secondo me proprio per la storia della Roma, l'ho già detto, anche se non arriverà a questo scudetto, sono sicuro che arriverà una qualificazione in Champions League, ma è arrivata una ventata d'ottimismo nuova, ci siamo ripresi i nostri tifosi e i nostri tifosi hanno di nuovo una squadra nella quale credere, dei giocatori da voler bene. E poi il sipario che cala sulle Olimpiadi di Sochi, le mandiamo in archivio con troppi rimpianti, c'è una nuova specialità nella quale siamo i numeri uno assoluti. Arrivare quarti, mettersi al collo la medaglia di legno, pensare a quello che poteva essere e non è stato, sarà per la prossima volta. Partendo da 5 medaglie, tutti avrebbero messo la firma per 8, però viste le cose come sono andate, c'è il rammarico sia di aver vinto l'oro sia di tanti quarti posto, però i numeri vanno letti e visti con grandissima onestà, senza nascondere le cose brutte, cioè non bisogna mettere sotto il tappeto la polvere. tutti convocati. 800 24 00 24. Carissimo Pier, abbiamo fatto arrabbiare gli interisti su Twitter. Abbiamo scritto: non è che tu ieri in tribuna porti un po' di sfiga, e ci ringraziano per il grande giornalismo. Stavamo scherzando, ragazzi. Al di là delle battute, Inter che però ha fatto un deciso passo indietro rispetto a quello che si era visto soprattutto a Firenze, passo indietro di gioco, di personalità. Mancava Hernanes e hanno giocato male anche gli altri, quelli che stanno intorno ad Hernanes. Pier, che voto dai, intanto che aspettiamo Mazzarri e aspettiamo anche di sentire Seedorf dopo la vittoria di Genova? Che voto dai, Pier, all'Inter di questo pomeriggio? 5 perché insomma è stato un po' veramente un brusco ritorno alla realtà. La partita di Firenze aveva illuso. A Firenze avevamo visto una squadra finalmente matura, finalmente capace di dominare la partita, insomma, al di là del risultato finale, veramente capace di dominarla contro un'avversaria comunque di grande livello, magari un po' stanca, però in casa sua, insomma, è stata una grande vittoria quella. E oggi un passo indietro, oltretutto contro una squadra che invece sta faticando, che aveva perso con Livorno, che sta un po' calando in classifica, quindi insomma tutti i segnali andavano nell'altra direzione. Un grande passo indietro, forse la sensazione che Hernanes in questa squadra è veramente un giocatore troppo importante, troppo decisivo. Sì, intanto io ti leggo la classifica alle spalle delle prime tre. C'è la Fiorentina con 44 punti, l'Inter a quota 40, Verona 39, Parma Torino 36, Milan 35. Considerato che si va in Europa anche col sesto posto, grazie alla qualificazione della Fiorentina nella finale di Coppa Italia, ho l'impressione che il Milan possa progettare davvero una rimonta, perché forse il gioco non c'è ancora. Poi vedremo che cosa è successo oggi a Marassi, però di sicuro i risultati con Seedorf stanno arrivando. Guarda, io penso che sia veramente la notizia del giorno questa. Poi bisognerà capire se il Milan avrà tutta questa voglia di andare in Europa League, detto in grande amicizia, nel senso che sappiamo che purtroppo io sono contrarissimo a questo malcostume del calcio italiano. C'è chi considera l'Europa League più un problema che un'opportunità, e per me è assurdo, veramente assurdo. Per me il Milan, se ha voglia e se ci crede, può arrivare al sesto posto, nel senso che ha le qualità tecniche, ha la società, ha la forza per poterlo centrare questo sesto posto, e soprattutto se dovesse uscire dalla Champions, io credo che a quel punto, per dare un senso a questo finale di stagione, sarebbe l'unica prospettiva possibile. Quindi insomma, è chiaro che il sesto posto non è così distante. Il Milan è vicino, anche vicino anche all'Inter. Sì, è vicino, quasi a portata di derby, sono 5 punti. C'è Seedorf, particolarmente sorridente ai microfoni di Sky Sport, allora quanto proviamo a sentirlo. Seedorf, che abbiamo visto oggi, in quello che gioca nella sua testa, in quello che vuol vedere lei. Sono qui per fare buzzword, credo che la cosa importante che vediamo è che la squadra cresce e poi i risultati ovviamente aiutano tanto, quindi oggi questi tre punti daranno ulteriore forze mentali e morali per continuare la crescita. Non era una domanda da buzzword, era per chiedere quanto le è piaciuto il gioco visto oggi. Allora, questa è una domanda diretta. La prossima volta me le scrive lei, perché sennò... No, se chiedi quelle che ho in mente è difficile da descrivere. Quelle che ho visto oggi posso proprio dare un'opinione molto concreta. Credo che la squadra è stato bravo, compatto, si sono aiutati molto. Devo fare complimenti comunque al lavoro che sta facendo Sinisa, perché è una squadra che ha cercato di giocare, e per quello abbiamo visto tutti una bella partita, e quindi credo che diciamo la giornata per il Milan alla fine è positivo sotto tutti i punti di vista, sia fase difensiva sia fase offensiva. Questo è il primo Seedorf, scrive un amico al 349 238 6666. Da interista penso che oggi non abbiamo giocato una cattiva partita, perché il Cagliari non ha quasi mai superato la metà campo. Invece secondo me l'Inter ha giocato una partita pessima, molto simile a quella di un mesetto fa, cioè all'Inter prima dell'arrivo di Hernanes. 800 24 00 24, Pier, sei lì? Sì. Traffico. Je ne parle plus. E a Torre Eiffel. 50 anni e non ci pensa. Augur, mister. Tutti convocati. Mi permetto di dissentire, l'avete vista la partita? Dubito, scrive un altro amico al 349-238-6666. L'Inter può vincere con Braschi contro, con il Milan contro, con tutti contro, anche voi. Non ce l'abbiamo, amico Ulisse, non ce l'abbiamo con l'Inter, semplicemente riteniamo che abbia fatto una pessima partita oggi, Pier. Però c'è tempo per parlarne. Lorenzo da Lugano, buon pomeriggio Lorenzo. Ciao, buon pomeriggio. Prego. Allora, no, io volevo intervenire, sono tifoso della Fiorentina, però sì, essendo milanese, tra i due milanesi preferisco l'Inter. Però credo che non faccia buon gioco agli interisti oggi non ammettere che la squadra è praticamente inconsistente. E anche quello che dice Pardo, che a Firenze ha meritato di vincere, dimentica che il secondo gol è stato uno scandalo. E comunque l'Inter deve prendere coscienza che ha un allenatore pessimo, è una squadra finita, che non ha nessun tipo di progetto, nessun tipo di idea di gioco, giocatori mediocri. Insomma, non fa onore agli interisti, non è nel loro interesse. Ma seguito sì, tutto bene, potremmo dire. La tocca a Viano, tutto a posto, Pier. Allora, che quel gol fosse fuori gioco, non ci sono dubbi che quel fuori gioco sia stato clamoroso. Non ci sì, però non si può ridurre tutto Firenze a quello. Siccome qui parliamo di prestazione, Firenze è stata secondo me un'ottima prestazione dell'Inter, anche sorprendente in positivo. Oggi è stato un passo indietro. Poi, secondo me, io sono d'accordo con la prima parte del ragionamento, cioè secondo me sarebbe sbagliato se oggi l'Inter non riconoscesse che è stata una prestazione negativa, ma lo sa anche Mazzarri, dai. Secondo me una squadra che si sta ritrovando oggi aveva la possibilità concreta di completare questo piccolo filotto di vittorie e di ritrovare un'autostima, una classifica di un certo tipo. È un'occasione fallita. Poi sì, certo, oggi l'Inter aveva l'obbligo secondo me di vincere. È vero che c'è stata la traversa in fondo, quella di Icardi, tra l'altro c'è anche da ragionare sull'utilizzo di Icardi. Lo chiediamo al nostro Dario Ricci, Pier, che è a San Siro. Dario, ciao, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Sì, un Inter ciao, su standard sanremesi, tanto per rimanere su spettacoli. Ho sentito fischi alla fine, dopo il fischio finale. Sì, fischi, e noi abbiamo sentito anche qualche parolina da parte della curva e degli spalti nei confronti di Mazzarri, che sembra avere esaurito il suo bonus. Lo chiedo al nostro ospite Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Beh, Andrea, dicevamo, niente ritmo di spettacolo neanche a parlarne, e il popolo nerazzurro sembra aver chiuso definitivamente la linea del credito per Mazzarri. È così come se ne esce, come la vedi? Buonasera a tutti. Ciao, direi che oggi l'Inter ha soprattutto regalato completamente il primo tempo. Mazzarri aveva chiesto una prova convincente dopo Firenze, voleva un atteggiamento diverso soprattutto dall'inizio, invece è proprio all'inizio che l'Inter ha sbagliato, è entrata in campo troppo molle, ha subito la fisicità, il pressing del Cagliari e non ha trovato il bandolo, soprattutto in Guarin, che era atteso ad una prova di conferma, invece ha fallito. In Alvarez, che sostituiva Hernanes, ma anche lui è stato abbastanza negativo. In Milito, che purtroppo il povero principe, sappiamo che insomma in una fase molto difficile e finale nella sua carriera, quindi non ha più la brillantezza necessaria. C'è stato poi un secondo tempo di buon impeto, di assalto, più o meno convinto, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, ma poi il gol della vittoria non è arrivato e forse non sarebbe stato neanche meritato. Sicuramente passo indietro, e adesso è a Roma sabato prossimo che l'Inter dovrà dimostrare qualcosina. Sono d'accordo sulla squadra, che è abbastanza alla frutta nel suo complesso, un po' meno su Mazzarri, che secondo me sta facendo il possibile e il massimo con quello che ha a disposizione. Sì. Grazie di Icardi nel secondo tempo, però troppo poco. È vero pure che quando è entrato lui ha fatto l'assist e poi la traversa clamorosa finale, però nessuna continuità. Sta sopra Icardi o sotto, Andrea, sta sopra o sotto Icardi, sì, adesso in gerarchia a Milito? Perché visto oggi è entrato molto, Icardi, comunque ha fatto molto. Molto più di Milito, sì, prego. Ha fatto molto più di Milito negli episodi, diciamo, importanti, ha fatto un assist, ha colpito una traversa, ma a parte questi due episodi Icardi non ha giocato molto per la squadra, non è mai venuto incontro al pallone, ha aspettato troppo, come se fosse il centravanti campione del mondo per il quale la squadra dovesse giocare tutta per lui, insomma. Ha avuto un atteggiamento un po' particolare che secondo me non sarà piaciuto a Mazzarri, anche se è entrato nelle azioni importanti, e già solo questo legittima un suo impiego secondo me dal primo minuto a Roma, perché Milito credo che stia franando lentamente. Pier? No, mi sembra che Icardi sia sopra, con tutti i limiti che appunto sono legati alla connessione con i compagni di squadra, che è ancora abbastanza così approssimativa a tutta una serie di bits di carattere caratteriale che ci sono, però mi sembra in questo momento abbia più energia di Milito, non credo che ci siano grandi dubbi da questo punto di vista. No, io sono assolutamente d'accordo con l'analisi di Andrea, penso che forse questa squadra fatica ancora di più quando gioca con le piccole, ecco, questo anche in vista della partita di Roma può essere una chiave, nel senso, e poi comunque mi sembra che a differenza per esempio dell'Inter di Stramazzoni l'anno scorso, che a un certo punto si è completamente sgretolata, l'Inter di quest'anno comunque ha tirato fuori delle buone prestazioni, o comunque delle prestazioni più che dignitose, anche in circostanze in cui ha perso, per esempio la sconfitta di Genova contro il Genoa, appunto la partita di Firenze, mentre è in difficoltà spesso, cioè quello che sta veramente faticando a fare è vincere le partite banali, vincere le partite con le squadre piccole. Qualche volta ci sono gli episodi, penso per esempio a Inter Chievo, qualche volta riesce con fatica come è successo con Sassuolo, qualche volta come succede oggi invece si impantana, e quindi magari contro la Roma bisogna magari verrà fuori una partita modello quella di Firenze, esatto. Però manca completamente la continuità, secondo me. Ha ragione un amico, Roma. Sebastiano, che scrive: quello che non si capisce mai dell'Inter è che partita farà, se esatto. Vuole evolva o peggiori anche nel gioco, tutte le volte è un po' come scartare un regalo e cercare di capire che cosa viene fuori, e secondo me questo è un limite, e se vogliamo anche una colpa di Mazzarri che non riesce a dare un'identità a questa squadra. Sì, la squadra però insomma è anche quella, cioè io sì, ma può essere inferiore anche nei singoli. Andrea, chiedo anche a te, ad esempio col Cagliari, io posso capire che vada in difficoltà magari con una grande, ma oggi a tratti il Cagliari anche nelle individualità ha fatto meglio, soprattutto nel primo tempo. Ecco Andrea, ti riporto la domanda: possibile che anche con le piccole quest'Inter soffra? Tra l'altro ricordiamo che sull'azione del rigore Juan Jesus doveva essere espulso, perché già ammonito avrebbe meritato la seconda espulsione. Sì, io su questo non sono d'accordo, però, perché a norma di regolamento questa ci hanno spiegato a Napoli ad esempio che non era da giallo il fallo di mano di Mertens, perché non impediva il pallone di andare a un avversario, quindi credo che nell'interpretazione non fosse da giallo, poi si può sbagliare. Prego Andrea. Siamo talmente nel caos a livello di interpretazione di norme sui falli di mano che posso dirvi tranquillamente che abbiamo fatto un piccolo sondaggio con i moviolisti, gli esperti arbitrali di un po' tutti i giornali italiani, e non tutti sono d'accordo su questo episodio, quindi per farvi capire a che livello di deriva regolamentare siamo. Comunque il discorso piccole e grandi, l'Inter fatica a muovere il pallone contro squadre ben organizzate difensivamente, mentre invece con squadre che magari di un livello tecnico superiore che cercano di fare la partita, l'Inter ha maggiore possibilità di giocare d'incontro e di fare cose migliori, come abbiamo visto a Firenze sabato scorso. Grazie, esatto, Andrea. Questa è una chiave che potrebbe essere interessante con la Roma, anche se la sensazione è che la Roma insomma abbia questo momento qualcosa in più, no? Quindi anche qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, che è stato diciamo l'esempio virtuoso della partita dell'Inter della settimana scorsa. Ma la difficoltà con squadre che si chiudono è enorme. E oggi si è vista in tutta la sua evidenza, anche se poi chiaramente ci sono gli episodi, c'è stata la traversa all'ultimo minuto, insomma. Sì, in qualche modo poteva portarla a casa l'Inter. Salutiamo Dario Ricci, salutiamo anche Andrea Sorrentino, lo lasciamo lavorare. C'è Marco da Venezia che ha chiamato l'800 24 00 24. Ci sono le parole di Pulga Diego Lopez ai microfoni di Sky Sport. Proviamo a sentirlo. La cessione di Nainggolan. No, io non parlo tanto della cessione di Nainggolan. Secondo me ci stanno mancando dei punti che abbiamo perso per strada anche con Nainggolan, quindi non penso che sia il fatto di un giocatore che tra l'altro l'abbiamo visto ieri, un giocatore forte. Tra l'altro Ilaria, riagganciandomi, sì, Lopez è passato in una settimana, Pier, dall'esonero quasi certo alla possibilità di vincere a San Siro. 800 24 00 24. Allora Marco da Venezia, Marco, buon pomeriggio. Ciao, grazie. Io Prego. Ho visto la partita e devo dire che sono rimasto un po' sbigottito dalle scelte di Mazzarri, perché vedere Kovacic, che è talmente e Kuzmanovic poi, che è veramente sufficiente ultimamente su alcune partite, Jonathan completamente spompato, e anche giocatori che non si trovano proprio nel suo ruolo tipico, tipo Alvarez, quando hai giocatori come Botta, Cambiasso e Icardi che erano in buon periodo di forma, anche se Cambiasso tornava mi lascia un po' dei dubbi sulle scelte di Mazzarri. Forse è stato sotto pressione perché c'era Torino che lo guardava, ma non so cosa dire francamente. Io dico che secondo me non tutti quelli che lei ha citato hanno fatto una partita pessima, però di sicuro Mazzarri non sembra avere le idee chiarissime l'Inter, in questo momento, Piero. L'Inter ha bisogno di mettere in campo tutta la qualità che ha, che non è moltissima, per cui nel momento nel quale perde un giocatore come Hernanes, che non è al meglio e non gioca... Insomma, cioè non è un caso che Hernanes e Guarin abbiano giocato insieme le due partite che l'Inter ha vinto. Sì, oggi tra l'altro ha giocato male anche Kuzmanovic. Ho l'impressione che con a fianco qualità Kuzmanovic possa fare solo il suo lavoro. Può fare il terzo centrocampista centrale, chiaramente il gregario di tre, insomma. Quello è il suo compito. Chiedere la qualità a Kuzmanovic significa chiedergli un compito che non ti può dare. È chiaro che un centrocampo dove hai Guarin, Hernanes e Kuzmanovic può anche essere un giocatore importante perché ti può dare un contributo tattico di un certo tipo, però se non c'è finisce che paghi, e soprattutto con squadre che si chiudono molto bene dove hai bisogno di velocità e di qualità nella manovra, questo può diventare letale. Sì, alla fine può diventare limitante, ed è quello che si è visto oggi, hai ragione, perché oggi al di là degli episodi della traversa e di un secondo tempo in cui in qualche modo l'Inter poteva anche portarla a casa questa partita, io lo ripeto, c'è stato un netto passo indietro. C'è Emilio da Milano che ha già chiamato l'800240024, gli chiedo però un minuto di pazienza, torniamo subito. Sappiamo che i social network sono importanti. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati 800240024. Prime battute di Mihajlovic da Marassi. La prestazione, concentrazione, spirito del gruppo e tutto quello, ai ragazzi non gli posso dire nulla, quello sì. Poi partita è stata decisa da episodi, ma abbiamo incontrato una grande squadra che penso che, se non oggi, ma penso miglior partita che hanno fatto fuori casa, perciò bisogna dare merito anche all'avversario. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ma purtroppo loro oggi sono stati superiori a noi. L'episodio di cui si parlava, ce n'è uno in particolare, riguarda il 2-0 del Milan, perché poi c'è un fallo di Pazzini sul vostro portiere. Quello quanto ha cambiato all'interno della partita, secondo lei? Anche perché poi c'era una battuta con un suo collaboratore che ha detto da annullare il 2-0 del Milan per un fallo di Pazzini su Da Costa. Sentiamo cosa ne pensa Mihajlovic. Decisioni arbitrali nel bene e nel male, perciò qualche volta ci è andata bene, qualche volta no, ma non voglio nessun tipo di alibi. Abbiamo perso meritatamente, non c'è nulla da dire, dobbiamo, questi momenti bisogna rimanere sereni, calmi, non perdere fiducia. Sappiamo che ci sono ancora tante partite, siamo ancora messi bene in classifica, perciò bisogna cercare di prendere punti prima possibile, ma non è un problema per quanto mi riguarda dell'arbitro. Queste sono le parole di Sinisa Mihajlovic. Pier, saluto Vittorio Feltri, editorialista del Giornale, grande appassionato di calcio. Buon pomeriggio, direttore. Buonasera. Buonasera a lei. Come sanno i lettori di Tutto Sport, che tra l'altro lo leggono tutte le settimane sulla prima pagina di Tutto Sport, Pier, abbiamo convocato Vittorio Feltri perché in questa settimana in cui è nato il governo ci sono ancora larghe intese. Volevamo capire se c'è un po' clima di larghe intese anche nel campionato italiano, tutti a sperare che qualcuno fermi la Juve, oggi tutti i tifosi del Toro, settimana prossima probabilmente tutti i tifosi del Milan. Mi sembra che a Conte stia un po' così, insomma, questa situazione. No. Sì, beh, il calcio mi sembra una pia illusione, perché la Juventus ha già preso il largo e sarà difficile che la stessa Roma, che pure è quella che marcia con maggior speditezza, possa riuscire a raggiungere la Juve. Naturalmente nel calcio tutto è possibile, lo sappiamo, è inutile ripetere sempre le stesse cose, però quando ci sono di mezzo così tanti punti è veramente un problema. La Juve in Italia è la migliore squadra, come mette il piede a Bellinzona diventa una squadra normale, non certo delle più promettenti in campo internazionale. Quindi lei si iscrive al partito di quelli che ritengono questo campionato praticamente chiuso? Sì, mi sembra sembra un po' difficile. Ripeto, se può succedere di tutto, bisogna che la Juventus sia colta la paralisi progressiva per perdere questo scudetto. È talmente avanti che se anche dovesse inciampare non credo che non avrebbe la possibilità di rialzarsi e di ricominciare la corsa, anche perché le inseguitrici, ripeto, a parte la Roma, che è un'ottima squadra, le altre sono totalmente fuori gioco. Pierre. Poi mi sembra che, e questo insomma, uscendo dall'aspetto tecnico, che il mondo della politica sia molto più avvezzo alle larghe intese, cioè comunque la possibilità di trovare un accordo anche tra forze molto diverse è molto più facile che nel calcio. Da questo punto di vista il calcio mi sembra un ambiente dove la fede era componente, dove è più difficile cambiare idea. Insomma, i casi di persone che hanno cambiato squadra del cuore negli anni sono rarissimi e anche abbastanza clamorosi. Un handle with care, direbbero gli inglesi, no? Maneggiare con cura la fede calcistica. In politica forse questa è più facile, no? Si può cambiare idea, ci possono essere grandi mischioni come quelli che vediamo di questi tempi. Sì, nel calcio è un po' più difficile. Le piace questo Conte che non fa nulla per cercare di essere simpatico agli altri? Feltri. Ma io penso che Conte non si sforzi molto per essere antipatico. A me lo era già 7-8 anni fa, quando andò a fare l'allenatore dell'Atalanta con scarsi risultati. Ma cosa c'ha per essere così antipatico? È un ottimo tecnico, è comunque un personaggio anche genuino. Perché fatica così a diventare simpatico? Ma io penso che l'antipatia e la simpatia derivino da fattori impalpabili, diciamo così. È un po' difficile capire perché. Conte non è simpatico, ma è bravo, e siccome che è importante che un allenatore dimostri con i risultati di essere all'altezza della situazione, devo riconoscere che a Conte l'operazione è riuscita brillantemente. Praticamente questo terzo anno in cui domina il campionato e probabilmente vincerà il terzo scudetto, c'è poco da discutere. Poi la simpatia, l'antipatia, la capacità di mettersi in sintonia con quelli che lo ascoltano a parlare, questa è un'altra faccenda, ma non è molto importante. Io vorrei avere l'allenatore più antipatico della terra, ma che mi fa vincere. Poi insomma, non è che uno ci deve andare a letto insieme all'allenatore. Pier, secondo te quanto c'è di Berlusconi in questo nuovo Milan, quello di Seedorf? Pier? Sì. C'è un po', c'è sicuramente la visione alta del calcio, c'è un certo tipo di stile e un certo tipo di attenzione all'immagine che mi sembra sicuramente il famoso physique du rôle di cui parlava spesso Galliani. No, credo, a proposito di quello che diceva il direttore, che poi spesso c'è anche lo stereotipo del mondo del calcio che gli allenatori debbano un po' essere antipatici, no? Cioè c'è questo topo, questo modello di allenatore, diciamo, alla Capello, che poi in realtà fuori dal campo è una persona simpaticissima, di Mourinho, di Conte, che sono allenatori che non devono chiedere mai. C'è un po' questa filosofia del sergente di ferro, come si diceva una volta. Vi posso far sentire un allenatore di quelli che sta poco simpatici? Sentiamo. Generalmente gli altri, Mazzari, microfoni di Sky. Realizzato subito magari un errore che hanno fatto due, e magari fossimo andati in vantaggio. Chi fa calcio sa benissimo che le partite cambiano, però c'è anche, era un ottimo Cagliari che era venuto anche a giocarsela, ripartiva, c'ha dei giocatori molto forti, anche proprio adatti alle ripartenze, quindi era una partita particolare, difficile, eravamo riusciti a pareggiarla, abbiamo creato tanti palle gol e non siamo riusciti a farle, quella è la storia. Poi alla fine le occasioni anche sull'1-1 sono state alcune proprio clamorose, a parte la traversa, l'occasione di Palacio, ce ne state altre importanti. Sì. È così. Nel secondo tempo con l'ingresso è piaciuto Feltri l'Inter oggi? Molti tristi dicono poteva vincere, doveva vincere. Non ho visto la partita, però l'Inter, diciamo che quest'anno non ha una omogeneità tale che ti consenta di capire quali risultati possa ottenere da qui alla fine del campionato. Ha fatto delle buone partite, ha avuto qualche sussulto, però fondamentalmente è una squadra modesta, ma non è certo colpa di Mazzari, il quale non mi è assolutamente antipatico. A volte dice delle frescacce come tutti noi, per l'amor di Dio, però Uno che ha dimostrato di saper fare anche al Napoli, non è che Mazzarri abbia fatto peggio di Benitez, insomma non credo che sia colpa sua, la squadra è quella che è, la formazione è quella che è, gli uomini sono quelli che sappiamo e credo che più di quanto abbia fatto fino adesso non potrà fare da qui alla fine del campionato. Ma Toir che sta rottamando un pezzo per volta l'Inter, prima Branca, poi i senatori che a giugno andranno via tutti, secondo lei è una buona notizia o no per i tifosi dell'Inter? Credo che a un certo punto sia necessario cambiare aria in qualsiasi ambiente, il fatto che anche l'Inter cerchi di mutare il proprio assetto mi sembra un segnale positivo. Non mi fido molto di Toir perché è un signore al quale, quando gli fu chiesto quale fosse il giocatore dell'Inter più rappresentativo, quello che ricordava il campione più importante della recente storia dei nerazzurri, disse che quel giocatore era Ventola, insomma, allora uno così mi pare che non abbia ben capito dove. Sì, non un bel biglietto da visita. Sì, non si sa se sia consapevole dove è finito, insomma l'Inter ha avuto fior di campionissimi e quindi insomma mi sembra che questo signore potrà fare forse un lavoro di pulizia, no? Come quelle imprese di pulizia che a volte prendiamo anche in casa per dare una sistematina ai nostri locali. Ecco, dopodiché però secondo me o rientrerà Moratti o altro, ci sarà qualcun altro che si metterà alla guida dell'Inter e potrà far tornare questa squadra ai livelli che le competono per tradizione, per blasone, eccetera. Insomma, non penso che questo signore orientale sia in grado di riportare l'Inter ai vertici del calcio nazionale, magari anche internazionale. Sì, questa cosa che Moratti possa rientrare nell'arco di 2 o 3 anni gira, io non so se sia una suggestione o se ci sia un fondamento, però Pier certamente è ancora oggi tra i tifosi dell'Inter un argomento di discussione. Abbiamo ancora un minuto con il direttore Feltri. Pier, a me piacerebbe capire cosa ne pensa lui dell'interesse invece di Berlusconi oggi per il Milan. Tu che sensazione hai, Pier? Poi glielo chiediamo. Ma io penso che le sensazioni in questo momento sono positive. Però io volevo chiederti una cosa invece sullo Tito, perché secondo me è uno dei temi della serata e riguarda strettamente il rapporto fra tifoso, consumatore, cliente, usando volutamente queste espressioni un po' commerciali, e presidente di una squadra di calcio, perché poi quello che alla fine i tifosi della Lazio rinfacciano allo Tito, poi ne parleremo anche più avanti, non sono tanto i risultati così, ma un certo tipo di mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Volevo capire che cosa ne pensava lui. Direttore. Ma io penso che lo Tito sia stato forse il miglior presidente della Lazio degli ultimi 30 anni. Ecco, sì, questo pare a me, posso anche sbagliarmi, anche perché non dimentichiamoci che la Lazio sta facendo fiori di campionati da molti anni, poi ci può essere l'anno in cui va meglio, l'anno in cui va meno bene, ma questo lo sappiamo, vale per tutte le squadre. Per quanto riguarda invece Berlusconi, l'uomo è talmente travolto da 1000 problemi extra calcistici che credo dedichi al Milan soltanto i rimasugli del proprio tempo, che sono proprio rimasugli. Sì, non gli interessa più come 20 anni fa, no. Come quando l'ha usato anche come veicolo per farsi conoscere. Non ha più lo stesso tempi, legame. Certo, erano altri tempi, non aveva ancora la testa nella politica, tanto è vero che da quando è in politica, ma non parlo dei primi tempi, sulla scia dell'entusiasmo degli anni precedenti riuscì ancora a fare cose eccellenti, ma è da parecchi anni che ormai non dedica alla sua squadra quella partecipazione, quell'entusiasmo che invece è necessario per tenere un ritmo elevato, per continuare ad essere tra le migliori squadre del mondo. Ormai siamo nel pieno declino anche nel Milan, mi dispiace dirlo, mi dispiace per Berlusconi, ma la verità è questa e un po' mi dispiace. Grazie direttore. Buonasera, grazie a loro. Grazie Vittorio Feltri. Pier, abbiamo un po' di ascoltatori, c'è il traffico, poi li prendiamo. Traffico. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. 800 24 00 24, Giovanni da Milano. Giovanni, buon pomeriggio. Buonasera a lei. Prego. Sono al rientro dallo stadio, dalla partita di oggi con mia sorella e mio figlioletto Matteo. Pensavamo di fare una bella domenica, invece siamo sconsolati e contrariati. Prima cosa, perché il signor Mazzarri, io non capisco come mai si ostini a far giocare uno come Kuzmanovic, che ripeto, nel Brescia non la troverebbe posto. Secondo, il signor Milito, un monumento gli facciamo, però deve stare in panchina assieme al grande capitano Zanetti. Non è possibile che noi tutte le volte rinunciamo a due giocatori. Terzo, ho sentito l'intervista di Mazzarri, ha detto che nel secondo tempo sono fioccate le occasioni. Le assicuro che con un gol al 51esimo, l'ultima occasione l'abbiamo avuto con la traversa presa e prima una di Palacio. C'è una squadra che gioca una partita a settimana, non può giocare sotto un ritmo così. Se l'anno prossimo, per caso, per disgrazia, facciamo un'Europa League che giochiamo il giovedì, la domenica dobbiamo mettere in campo un'altra squadra, perché il ritmo di oggi, visto dalle tribune, era veramente una partita ferragostana. Sì, partita sotto ritmo, soprattutto nel primo tempo. Pier, io credo che Mazzarri debba rassegnarsi. Va bene il discorso sull'autonomia in campo di Icardi, ma io non capisco come si possa preferirgli in questo momento Milito. Ma sì, in questo momento, come abbiamo detto prima, mi sembra che Icardi abbia superato Milito nella gerarchia, mi sembra che sia diventato, con tutti i suoi difetti, con tutta la sua discontinuità, però il giocatore che in qualche modo può rappresentare una speranza dal punto di vista offensivo per l'Inter, assieme a Palacio ovviamente. Quindi la mia sensazione è che il sorpasso sia stato completato. Su Milito che cosa dobbiamo dire? Milito è una leggenda del calcio nero-azzurro degli ultimi anni, come tutte le situazioni della vita. E però in questo momento serve altro. Il tempo passa. C'è la sensazione che forse Milito lì non tornerà mai più, insomma, glielo auguriamo, però ci sono delle leggi contro le quali non puoi far nulla, è la natura, quindi la mia sensazione onestamente è quella. Certo. Poi è chiaro che è stato condizionato dall'infortunio, quindi ancora c'è la possibilità di pensare che certe sue difficoltà possano derivare dal rodaggio. Ma sì, stiamo parlando di giocatori che non rivedremo più sui livelli del 2010. Quindi Giovanni da Milano deve elaborare il lutto dell'invecchiamento di un giocatore che è stata la storia di questa squadra. Sì, non è facile, eh. Capisco che non sia facile. Giovanni da Milano, Giovanni, buon pomeriggio. È caduto, allora facciamo Massimo da Milano. Pronto? Sì, prego. Niente, io volevo dire questa cosa. Io sono convintissimo, anche se si è visto poco, però sono convintissimo che Ruben Botta sia fortissimo e meriti di essere titolare. I pochi movimenti che ho visto fare in campo, io vado sempre a San Siro, ma l'ho visto anche in trasferta, dimostrano che questo giocatore è molto, ma molto forte. Io giocherei con Palacio e Botta dietro Icardi. Bisogna avere il coraggio di farlo, soprattutto perché da qui a fine anno non faremo nulla che ci porterà né in Champions League, tantomeno in Europa League, anche se entriamo, poco importa. Farei questa prova e segnatevi questo nome, Ruben Botta è molto, molto forte. Sì, io non credo che all'Inter non importi entrare in Europa League, mi perdoni, non credo debba non importare nemmeno al Milan. E saluto Filippo Galli, ciao sì, Filippo. Buonasera. Ciao, ciao. Mi sembra un po' miope se qualcuno, Inter o Milan o chiunque, pensi che sia un obiettivo secondario entrare in Europa League e anche farla bene, discorso da estendere a chi la sta facendo. Prego Filippo. Ma sì, sono d'accordo, io credo che comunque entrare in una Coppa Europea sia sempre importante per un club, per fare esperienze ai propri giocatori, per dare una rotazione, anche considerando che magari potrebbe esserci una rosa con dei ragazzi, con dei giovani che hanno bisogno poi appunto di fare queste esperienze in previsione ovviamente di tornare al più presto nella Coppa Europea che vale, no? Che vale davvero, che è la Champions. Però l'Europa League poi diventa davvero importante quando vai avanti, ti rendi conto che il palcoscenico e lo scenario che si presenta con grandi squadre di blasone e di storia, insomma, fa sì che devi giocarla e farla al meglio, perché sennò anche lì fai figuracce. Sì, Milan di oggi ti è piaciuto? Abbiamo detto molti episodi, non l'hai visto? L'ho intravista la partita, diciamo così. Mi è piaciuto per l'approccio iniziale, mi è piaciuto per come è stato in campo. Qualche episodio sì, ci è stato a favore, ma io tra l'altro ho sentito da soli poco dopo la partita, perché ce ne siamo sentiti per la questione Petagna che si unirà alla primavera domani, e quindi era molto soddisfatto. Insomma, è chiaro che poi le partite, come ha detto anche lo stesso Mihajlovic, si risolvono attraverso degli episodi. Stavolta gli episodi sono stati a nostro favore, ma credo che il Milan abbia tenuto abbastanza bene il campo. Sì, Pier, bisogna concentrarsi, secondo me, al di là degli episodi. È evidente che c'è una papera sul gol dell'1-0, c'è un fallo, c'è un fallo evidente, esatto, sul gol del 2-0, però mi sembra che ci sia una crescita del Milan negli ultimi 10 giorni. Sicuramente la partita di Champions League è stata una partita dove bisogna appunto sforzarsi di non essere schiavi del risultato, così come bisogna farlo, ed è più difficile quando il risultato è positivo per le squadre italiane, giocano male, e bisogna sottolineare che giocano male. Allo stesso modo, secondo me l'altro giorno è stata un'ottima partita, sorprendente per certi versi contro l'Atletico Madrid, e mi sembra che l'onda lunga di quella partita oggi si sia vista. E volevo anche sottolineare l'onestà intellettuale di Mihajlovic, che abbiamo sentito prima, perché sicuramente c'è un episodio sul quale la Samp può recriminare, ma l'atteggiamento, volevo sentire Filippo anche su questo, da allenatore, è non creare alibi per i propri giocatori, riconoscere quando c'è la superiorità dell'avversario, che non sia un tipo di allenamento che non tutti gli allenatori fanno e che possa essere utile per un gruppo, o no? Pierluigi, ti porterei a parlare con tutti coloro che si occupano di settore giovanile. Per quello che hai detto, davvero il fatto dell'essere schiavi del risultato, ma guardare davvero la prestazione è veramente quanto di più bello ci possa essere nello sport. È chiaro che poi quando sei a questi livelli diventa davvero difficile, però sposo in toto tutto quello che hai detto. Abbiamo ancora un minuto, Filippo. Gioca meglio il Milan con Pazzini e non con Balotelli là a fare da riferimento davanti? Non so questo, però è indubbio che Pazzini ha una capacità di andare in profondità e allo stesso tempo di sapere essere riferimento per qualora si cerchi la palla in avanti, per far salire la squadra, sa difendere palla, e più, diciamo, è più disposto a fare questo tipo di gioco, ma credo che i due possano anche giocare assieme, perché quando hai due campioni è importante riuscire a farli poi convivere. A me Pazzini piace in maniera particolare, perché poi è un giocatore che, ripeto, dà sempre il massimo di quello che può dare, lo dà sempre per la squadra, quindi sono contento quando fa bene. Grazie Filippo. Grazie a voi. Grazie Filippo Galli. Pier, ti lascio con le formazioni ufficiali di Juventus Torino, tutto confermato: Juve con Buffon, Barzagli, Bonucci, Cáceres, poi Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Tevez e Llorente; Torino con Padelli in porta, Bovo, Glick e Moretti in difesa, Darmian, Kurtic, Vives, El Kadouri e Masiello a centrocampo, Cerci, Immobile in attacco. In 10 secondi dammi il tuo pronostico. Per me vince la Juve, anche se sono d'accordo che ci sono tutte le insidie e tutte le possibili trappole. Bel tema quello lì di Pazzini, sì. Balotelli è più forte in assoluto, però forse con Pazzini il Milan ha un andamento un po' più regolare, te lo lascio in eredità per domani, appuntamento alle 14 con Carlo Genta. Noi invece torniamo tra pochi minuti. 800 24 00 24. C'è il solito spazio per Turan, prova ad accelerare, palla al piede, va per il cross e c'è il gol del pareggio della Juventus, un gol di Maresca che poi va a mimare le corna del Toro a mo' di scherno. Tutti convocati. Come saprei capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi. Io ci arriverei. Carissimo Carlo Genta, pensa che nel 1995, quando il Toro vinceva l'ultimo derby, il Festival di Sanremo lo vinceva questa canzone qui, di Giorgia. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Giovanni, questa la so, non ho ancora sentito quella che ha vinto quest'anno. Arisa, controvento, e noi andiamo controvento perché pensiamo che questa sera il Torino possa riaprire il campionato. Però ti faccio sentire Marotta, lo faccio sentire anche Maurizio Crosetti, che saluto. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti voi. Vi faccio sentire Marotta ai microfoni di Sky Sport. Siamo a una ventina di minuti dall'inizio di Juve Toro. quindi può succedere di tutto, però insomma siamo, direi, felici che possa succedere di tutto. Ovviamente era una battuta. Io invece volevo andare un attimo sul tema derby, perché incontrate il Torino probabilmente nel suo momento migliore, mentre voi avete appena iniziato la fase dura della stagione. Preoccupati, tutto secondo la routine? Ci deve essere quel giusto timore, che equivale a sinonimo anche di grande motivazione che i giocatori hanno, soprattutto in una extra cittadina. Però credo che ogni domenica per noi sia un esame da superare, perché quando si gioca contro la Juventus le motivazioni dei nostri avversari, indipendentemente dalla posizione di classifica, sono a un livello alto. Lo è maggiormente oggi contro una squadra... Fatto male Masiello? Sì, c'è un giocatore del Toro che si è fatto male in riscaldamento ed è Masiello, lo segnaliamo, portato fuori a braccia dal terreno di gioco, quindi presumo che Ventura debba cambiare la formazione. Maurizio Crosetti dice la verità Marotta quando dice di temere il Torino, oppure al di là dei 19 anni senza vittorie del Toro in un derby, il Toro che non segna dal 2002, il numero che conta sono quei 27 punti, 27 di distanza tra le due squadre in classifica? Bah sì, conta quel 27, anche se poi in realtà le distanze in classifica in una partita si azzerano sempre, salvo poi ritornare magari dopo 90 minuti anche più ingigantiti, insomma, no? Ma il numero potrebbe essere per esempio anche 24, che sono i gol della coppia d'attacco del Toro, oppure potrebbe essere 23, che sono i gol della coppia d'attacco della Juve, quindi 23 più 24 dovrebbe far immaginare un derby con tanti gol, ma anche in questo il calcio non ha regole, non ha una matematica, no? Non ha una logica binaria, per cui magari invece finisce 0-0 ed è una partita noiosa. Io non credo questo, penso anzi che sarà un derby capace di confermare la vocazione offensiva sia della Juve e sia del Toro. Comunque fa impressione, lo dico a tutti e due, anche a te Carlo, pensare che l'ultima volta che il Toro ha vinto qualcuno tentava di buttarsi dalla balconata dell'Ariston a Sanremo e c'era Pippo Baudo a tenerlo. Pensa Maurizio come passa il tempo. Sì, la cosa triste è che la balconata è sempre quella, che c'è sempre qualcuno che prova a buttarsi di sotto e che c'è sempre un presentatore che prova ad evitarlo. È come se l'Italia avesse questa ossessione, questa vocazione, questa condanna alla replica continua, no? Siamo un paese di repliche e talvolta anche di replicanti. Oggi, Carlo, è anche la domenica dell'orgoglio di Torino, 99 punti in due, nessuno sta facendo meglio a livello di città, poi scopri che non accade proprio da quel 1995 lì. Non so se sia un segno di nobiltà per Torino o se sono gli altri che vanno talmente piano, l'abbiamo visto anche oggi a Milano, da non meritare abbastanza. No, io dico che è meraviglioso innanzitutto sentire Cross anche la domenica, tanto per cominciare. In secondo luogo, io sto continuando a tenere i conti dei punti che ha la Juventus rispetto alla somma di quelli che hanno Milan e Inter. Siamo lì. In settimana Paolillo è tornato su quell'argomento pazzesco Milan e Inter insieme per il futuro del calcio, che è la boiata più clamorosa che si possa dire. Neanche al Festival di Sanremo riuscirebbero a dirne una così grande. Prima sentivo Marotta, continuo a domandarmi che cos'è la extra cittadina. Marotta l'ha chiamata così. No, mi sto divertendo molto. Io credo che sarà un derby interessante e credo, dopo aver sentito Crosetti, che finirà 0-0. Anzi, quasi quasi vado online e scommetto, cosa che non faccio mai. Maurizio, ha un significato che la Juve continui a prendere gol in questo 2014? 6 gare su 7, quasi sempre di testa. Cioè, esiste qualche crepa in questa squadra che, a detta di tutti, è costruita per stravincerlo questo campionato? La Juve ha sicuramente un problema sui palloni inattivi, come si dice, ma quando eravamo piccoli e il derby era una cosa vera non si diceva così. Si diceva, quando gli altri tirano il calcio di punizione o il calcio d'angolo, i più evoluti dicevano corner. No, questo era, come dire, un termine non riservato a tutti. Ecco che i due, lo stopper e il libero, non i centrali, non i laterali alti o bassi, ma trattavasi di stopper e libero, che erano la coppia centrale appunto, dovevano stare attenti a non farsi anticipare dagli attaccanti avversari, che potevano essere Pulici e Graziani o potevano essere, che ne so, Bettega e Anastasi. Sì, cosa che ai difensori in linea della Juve in questo 2014 sta riuscendo molto poco e molto male. Sì, quello sì, sicuramente la Juve, tra i pochissimi punti deboli che ha mostrato, questo sì, sui calci da fermo patisce un po' ed è un pochino stanca forse rispetto a tutti questi mesi vissuti sempre al massimo. È sempre una squadra di cannibali, ma sono dei cannibali che hanno forse un po' di stanchezza, ecco. Il derby però può essere poi all'ora dell'aperitivo, figurati, oppure per dirla come si usa adesso con una parola terrificante, all'ora dell'apericena, ecco, vedete. Una volta avevamo il derby alle tre del pomeriggio al comunale, adesso abbiamo il derby all'ora dell'apericena. Sì, la pericena al Juventus Stadium, tra l'altro sottolineo oggi non esaurito, perché sono andati in venduti credo circa 500 biglietti del settore ospiti e anche un paio di centinaia di biglietti riservati ai tifosi della Juventus. Non so se ci sia da fare un ragionamento sui prezzi, se da parte dei tifosi del Toro ci sia un rifiuto ad entrare allo Juventus Stadium. Maurizio, tu che conosci meglio l'ambiente. Ah, entrare qui dentro è sempre difficile per gli altri, perché è uno stadio che ha tutti i posti già venduti e quindi lo spicchio dei tifosi ospiti è esiguo, molto costoso, ma questa è una regola ormai del nostro calcio. Sì, era così anche all'andata, a parti invertite, così lo diciamo, sì, così, ed evitiamo polemiche con i tifosi della Juventus. No, assolutamente, ma funziona così, insomma, il calcio poi propone partite ogni tre giorni, insomma, c'è anche da immaginare che, non per i tifosi del Toro, loro non hanno le coppe, insomma, però insomma in generale chi va allo stadio deve scegliere quale partita vedere. Io penso che nelle migliori delle occasioni si possano scegliere un paio di partite al mese, non di più, e poi le altre si vedono alla televisione. Sì, continuo a faticare a capire perché non si scelga il derby per un tifoso del Toro che ci arriva, lo abbiamo detto per tutta la settimana, con il miglior Toro degli ultimi anni. Maurizio, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi ti salutiamo con un po' di colore, un po' di ambiente proprio sullo Juventus Stadium. Tutti convocati. Speriamo che i cannibali non siano sdentati, ha scritto un amico via sms al 349-238-6666, invece per chiamare in diretta 800-24-00-24. Vi annuncio anche che dopo le 18.30 parleremo del caso Lotito. Questa sera va verso una contestazione da parte di tutto lo stadio olimpico. Per chiudere con Maurizio Crosetti, Maurizio, evidentemente nessuno contesterà nessuno allo Juventus Stadium questa sera, aiutaci a capire che temperatura c'è. Beh, intanto volevo spiegarvi che oggi il calcio prevede il riscaldamento delle squadre in una cosa che qui gli speaker hanno chiamato warm up, in una musica da discoteca, quindi insomma, per carità, sono le regole del calcio spettacolo, quindi anche in questo l'iconografia è più da discoteca che non da stadio, però tutto questo svanirà tra poco meno di un quarto d'ora, perché poi appunto parlerà solo il campo. L'atmosfera è la solita, molto, molto inglese, che si vive in uno stadio dove nessuno quest'anno ha preso nemmeno un punto, e indubbiamente l'effetto ambientale di questo stadio io credo che c'entri anche nel rendimento casalingo della Juve, perché come accade appunto in certi stadi inglesi, il pubblico aiuta, ecco, anche se poi questo è un pubblico un po' schizzinoso, un pubblico abituato molto bene, un pubblico che nelle ultime partite ha anche fatto una specie di sciopero del tifo per questioni legate a biglietti, cose interne, cose loro, diciamo. E Conte è andato un po' in paranoia per questo, perché lui sa che il pubblico è importante, lui che vive tutto sui nervi, sulla passionalità, sul boato, insomma, no? Lui sa che sì, questa sera non dovrebbe avere problemi, credo, da questo punto di vista non dovrebbe avere problemi di sciopero, di freddezza. Immagino che il pubblico della Juventus cercherà davvero di essere il dodicesimo uomo in campo. Grazie Maurizio Crosetti. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Maurizio, che lasciamo alla partita. Carlo, c'è Maria Paola da Milano. Buonasera Maria Paola, prego. Io sono una juventina dalla nascita, proprio di famiglia, però oggi mi sento di dire forza Toro. Sa perché? Perché conoscendo bene il Piemonte, dove io sono stata in banca, chiamo da Milano, il nocciolo duro del vecchio PC era tutto per il Toro, non è cambiato niente a Torino, perciò diamo una mano al nuovo governo. Se questi qui della vecchia gloria vincono stasera, domani sarà tutto liscio. perciò forza Toro e io mi sacrifico. Oh, l'abbiamo detto, Carlo, prima anche con grande. Vittorio Feltri, che è giornata da larghe intese anche nel calcio, tutti contro la Juve. Tra l'altro la signora Maria Paola, io me la ricordo, è una nostra amica di lunga data e la saluto con grande affetto, il suo intervento è stato meraviglioso. Sì, dai, diciamo forza Toro. Tu pensa se la sente Conte, al di là della politica. Se la sente Conte, Maria Paola. Sì. Intanto dovrebbe esserci Pasquale al posto di Masiello, che ha abbandonato il terreno di gioco nel warm up, come ci ha raccontato Maurizio Crosetti. Convocato Ciccio Graziani, ciao Ciccio. Ciao ragazzi. Senti cosa ti faccio sentire. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento. Dentro l'aria sporca il tuo sorriso contro vento. Il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco. Tu sei come me. Matador contro Bucci, è pronto Bucci, è pronto Salas, fischia l'arbitro, va Salas, incredibile, che errore! Un altro giorno, un'altra ora ed un momento, dentro l'aria sporca il tuo sorriso contro vento, il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco, tu sei come me. Sicuramente Davids, dall'altra parte c'è Del Piero, Davids in area, Davids con il portiere, Davids il tiro, rete, Edgar Davids, la Juventus fa poker, 4-3. Il cielo su Torino sembra ridere al tuo fianco. Come si fa, carissimo Ciccio Graziani, a non vincere un derby per 19 anni? Non fare un gol per 12, come si fa? Come si fa? Purtroppo si fa, perché... L'agonia è lunga, non ne possiamo più noi del Toro, quindi ci aspettiamo che ci dia una mano anche la cabala, perché dopo tanti anni prima o poi un risultato positivo deve venire fuori. Ma dire che Cerci Immobile sono come o meglio di Tevez e Llorente, al di là che hanno fatto un gol in più, è soltanto una suggestione e marketing per provare a dare un senso a questa partita, che cos'è? È marketing, perché io credo non me ne vogliano Cerci Immobile, che stanno facendo un campionato meraviglioso per loro e per la squadra, ma credo che a livello tecnico Tevez e Llorente siano due giocatori di qualità superiore. Vediamo se riusciamo a cogliere i rumori dello spogliatoio del Toro da Sky. Carlo, tu ti aspetti un Toro d'attacco come tutti hanno chiesto a Ventura in questa settimana, oppure un Toro che proverà a fare la partita uomo su uomo per provare a togliere gli spazi alla Juve a partire da Pirlo? Ma io spero che sia un Torino d'attacco, anche perché non ci sono condizioni migliori. Negli ultimi anni il Torino è sempre arrivato a questa partita con problemi di classifica, con l'assilo del risultato. In queste condizioni cosa c'è di meglio che provare a vincere un derby che non vince 19 anni? Torino può giocare appunto libero da questi assilli, e quindi se non gioca oggi per vincere, quando giocherà mai per vincere un derby? Ciccio, quanti ne hai vinti tu di derby? Ma io ne ho vinti diversi, a dir la verità. In epoche diverse, con naturalmente squadre diverse, però io non credo che si possa pensare che il Torino questa sera imposti la partita, una partita d'attacco. Io credo che i derby sfulgono anche a qualsiasi tipo di tattica, perché in una partita come questa ci saranno dei momenti che attaccherai, dei momenti che dovrai difenderti, perché non ce lo dimentichiamo, la Juve è in assoluto la squadra più forte che in questo momento c'è in Italia, quindi il compito è di quelli difficili, ma il gap tecnico lo puoi far diminuire solo se il Toro ci mette attenzione, concentrazione, spirito di sacrificio, entusiasmo e soprattutto umiltà. Guai a pensare di lasciare spazio a questa Juventus, perché questa è una squadra che ha dei giocatori che se gli regali mezzo metro ti castigano. Sì, il derby non è la partita giusta forse per fare filosofia, per fare bel calcio. Credo poco anch'io, devo dirti la verità, un Toro che cerchi di fare la partita. Credo però e volevo capire cosa ne pensi che il Toro abbia nel suo 11 gli uomini giusti per provare a fare male a questa Juventus, cioè quella che ha mostrato qualche crepa in questo inizio di 2014, quella che non ha più un fortino al posto della difesa, che ogni tanto subisce qualche gol, fa qualche errore. Mi sembra che il Toro, con Cerci, con Immobile, abbia in questo momento gli uomini giusti per provare a far male. Ma direi di sì, soprattutto se si riescono ad ottenere quegli spazi che spesso questi due giocatori ottimizzano al massimo quando giocano fuori casa. Quindi teoricamente oggi il Toro gioca fuori casa, anche se, ripeto, nei derby è difficile pensare chi gioca in casa e chi gioca fuori. Magari in questa circostanza si evidenzia un po' di più, perché una volta i derby si giocavano esclusivamente nello stesso stadio, almeno quando li facevo io giocavamo sempre al Comunale, e quindi non poteva esserci questa differenza. Oggi invece va in trasferta, va in casa della Juve, nel suo stadio, e teoricamente è come se giocassi fuori casa, e soprattutto potresti approfittare eventualmente di quegli spazi che si possono creare nelle ripartenze, perché il Toro è fortissimo nelle ripartenze, perché Immobile e Cerci sono davvero molto bravi, e quindi devi approfittare di quello. Ripeto, la Juve sulla carta è favorita perché è più forte, ma nei derby non si sa mai, a volte la squadra che ha la maggior possibilità di vincere la partita, che è nel favore dei pronostici, a volte lo perde il derby. Intanto vi ufficializzo che al posto di Masiello sulla fascia sinistra ci sarà Pasquale. Masiello, che si è fatto male in momento di riscaldamento, e al suo posto quindi giocherà Pasquale. Carlo, io voglio credere anche che la vittoria di ieri della Roma comunque un po' di pressione la metta su questa Juventus. Tu sai che io continuo a ritenere che 6 punti virtuali non siano un margine sufficiente per considerare chiuso il campionato. Ecco, secondo me, a partire da questa sera, questa è la settimana decisiva, una delle prime settimane decisive per la corsa scudetto, perché poi ci sarà la trasferta in Turchia, poi ci sarà il Milan, che comunque, lo abbiamo visto, comincia ad avere una sua identità. Quindi questa sera, secondo me, la Juve gioca con un po' di pressione. Ma facciamo finta che sia così, poi tu sai che io non così, ti credo. È così. No, facciamo finta che sia così, perché... Anzi, io credo paradossalmente che si parlava con Crosetti anche degli sbaglioni difensivi, degli stopper libero dei difensori centrali della Juventus. Io credo che comunque questo serva per tenere alta la pressione del gruppo. Non lo so, cioè, secondo me il campionato è strachiuso. Solo la Juventus può riaprirlo, solo la Juventus, non la Roma. La Roma deve semplicemente giocare una partita dopo l'altra e cercare di vincerle tutte, ma solo la Juventus può riaprirlo, ma mi sembra estremamente difficile. Quindi io continuo a non crederci, poi spero di vivere un aprile più interessante. Per adesso è un campionato che non esiste. No, sta per arrivare un grande marzo, Carlo. Abbi fiducia. Ciccio, c'è un po' di pressione sulla Juve. Ti è piaciuta la Roma di ieri sera, tra l'altro con tanti assenti? Sì, nonostante le assenze e le difficoltà, io credo che la Roma non abbia brillato ieri sera, però questo è un valore aggiunto. Vincere quando la squadra non brilla o non ha giocato ai soliti livelli delle partite precedenti è un segno positivo. La pressione a volte può dare degli stimoli in più, ma a volte potrebbe crearti anche delle problematiche a livello psicologico. La Juve deve vincere questa sera. I punti sono tanti, bisognerà vedere poi il recupero della Roma che cosa farà, ma se dovessero essere i punti 6 col recupero della Roma vinto, e insomma il campionato penso che si potrebbe riaprire, perché le competizioni europee alla Juventus gli porteranno via sicuramente qualche punto, e poi ci sono sempre gli avversari. Bisogna vedere questa sera che cosa viene fuori. Sì, qualche risposta cominciamo ad averla questa sera. Intanto squadra in campo, c'è Rizzoli che è l'arbitro di questo derby tra Juventus e Torino, quindi manca davvero poco per il fischio d'inizio. Saluto Ciccio Graziani, ciao e grazie. Carlo, resta lì ancora un minuto, ti saluto dopo la pubblicità. Questa mania di twittare. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, primi 2 minuti e 30 secondi di nulla a Torino, Juve Toro 0-0. Carlo, ti faccio sentire Daniele De Rossi ieri sera nella Mix Zone di Bologna a proposito della Juventus e di questo sogno che la Roma continua, secondo me, legittimamente a coltivare, di poter pensare di impensierire la Juventus fino a fine stagione. Sentiamo De Rossi. Una squadra che fa sempre un campionato a sé come la Juve non c'è stata solo quest'anno, insomma, è stato il destino anche di altre squadre fortissime che sono arrivate seconde, il Napoli di Cavani o il Milan di Ibrahimovic, negli ultimi anni sono state delle vittime simili a noi. Noi da parte nostra abbiamo fatto un inizio di stagione che faceva pensare tutt'altro e che sembravamo quasi noi la squadra che doveva fare la corsa da sola. È così, la Juve è una squadra creata per ammazzarlo il campionato già a febbraio-marzo, e il fatto che non ci sia riuscita ancora è importante. Intanto prima occasione che era creata dal Toro con un destro di Kurtic dal limite dell'area di rigore, palla che si è persa sul fondo. Secondo me Carlo De Rossi sta facendo quello un po' così, che si nasconde. La Juve è costruita per chiudere questo campionato, per vincerlo. Già altre grandi squadre come il Milan di Ibrahimovic, il Napoli di Cavani non ce l'hanno fatta, però a me è sembrata la Roma di ieri sera una squadra molto solida che ha ancora forse margini di miglioramento in questa sesta stagione. Sì, ma a me non sembra che si nasconda, anche perché appunto dice la Juventus è costruita per ammazzare il campionato, non ce l'ha ancora fatta, quindi questo è buon segno. Certamente ha ragione Graziani quando dice che giocare una partita così come quella della Roma di ieri sera e comunque portarla a casa in trasferta è un ottimo segno, però ripeto, secondo me la Roma non c'entra nulla, tutto dipende dalla Juventus. La Juventus è talmente solida, mi sembra talmente inattaccabile che solo la Juventus può creare le condizioni per una rimonta della Roma. Ripeto, paradossalmente la Roma in questa situazione non c'entra nulla. Comunque due cose che butto lì anche agli ascoltatori che a me sembrano interessanti. Oggi migliore in campo Mihajlovic, non so se l'hai sentito dopo la partita. Sì, quando ha detto ci sono stati degli episodi, non siamo certamente stati favoriti, sì. Però non si può ridurre tutto alla lettura degli episodi. Lo dico tra l'altro anche agli amici da casa che ci stanno accusando di voler sminuire la vittoria del Milan. Ricordo anche mercoledì l'arbitro non ha espulso in sua e allo stesso modo ha condizionato la partita. Noi non stiamo sminuendo nulla, abbiamo fatto cronaca dicendo che ci sono stati un paio di episodi favorevoli. Uno arbitrale certamente, che è il gol del 2-0 che era irregolare, e poi il gol dell'1-0 nato da una papera di Da Costa. Detto questo, il Milan negli ultimi 10 giorni comincia ad aver trovato una sua immagine, secondo me anche una sua coerenza tattica in campo, che non è quella con cui Seedorf è partito. No, ma il Milan oggi ha giocato un'ottima partita, non mi è piaciuta molto la Sampdoria, però Mihajlovic bravissimo nel dire il Milan ha giocato bene. Noi no, e quindi lasciamo stare gli arbitri anche per non creare alibi alla squadra. Secondo me questo è il senso di tutto, perché questo continuare a investarlo con gli arbitri alla fine finisce per crearti alibi e per complicarti il lavoro. Mihajlovic, che è uno molto intelligente, questo lo sa perfettamente. Grazie poi, Carlo. L'altro giusto? No, l'altro è che ragazzi, tutto il giorno che sono in casa, oggi c'è il sole, io, se mi mettono anche le partite alle 18, non so come la pensano gli ascoltatori, però non è che possiamo stare in casa tutto il weekend e anche il lunedì sera perché ci mettono partite a tutte le ore. Sinceramente mi sembra un po' tanta roba, considerate le coppe, la Coppa Italia. Siamo sempre attaccati alla televisione, ma vi piace questo o no? A me il derby alle 18.30 piace tantissimo, piace anche il derby alle 12.30, quello che non hanno fatto giocare a Genova. Grazie Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Grazie Carlo, parliamo un po' di Lazio, saluto Guido De Angelis, commentatore, tifoso, appassionato di Mediaset Premium, ciao Guido. Buonasera a voi. Voce storica per i tifosi della Lazio, ti facciamo sentire questo. Però non è che questo è come quando uno fa lo sciacaraggio, non è che poi dopo necessariamente può avvenire, avviene un drink di diciamo buono. Meglio soli che mal accompagnati, non è questo qui, anzi assolutamente. Però voglio dire, non è riferito a me. No, riferito a tutti i gufi che girano. Comunque adesso al di là di tutto quanto. Gufi, presidente. Ma no, questi gufi, visto che noi abbiamo l'Aquila, noi combattiamo i gufi, lo sai come funziona. Noi non preoccupiamo nessuno, anzi ci preoccupiamo noi, noi dobbiamo preoccuparci di noi stessi, non dobbiamo preoccupare gli altri. E poi non penso che la Juve sia preoccupata assolutamente della Lazio. Oh, a parte la simpatia personale mia per Lotito, Guido De Angelis, aiutaci a capire perché questa sera invece l'Olimpico si riempirà, perché si riempirà molto più di quanto è accaduto in Europa League contro i bulgari, solo per contestare Lotito. Beh no, c'è un po' più di gente, non è, le previsioni erano diverse, ci saranno circa 40.000 persone, forse, poi bisognerà capire quando entrerò allo stadio. Beh vabbè, le condizioni sono quelle di un presidente che a volte anche c'ha la battuta facile, è simpatico, ci mancherebbe altro, però certamente negli ultimi mesi, soprattutto dopo il discorso famoso a Piazza San Silvestro, lì quando vincemmo la Coppa Italia, permise di combattere le grandi del nord con una grandissima campagna acquisti d'estate, e purtroppo non è stato così, la Lazio non ha preso nulla, il tifoso ha capito che probabilmente il salto qualità non era possibile, poi ci ha sperato a gennaio e ahimè ha avuto la brutta sorpresa di cedere anche il gioiello della Lazio che era Hernanez. Però questo si parla di campo, poi è normale, ci sono tante altre cose che chi vive fuori Roma non potrà mai capire, nel senso che magari lui tante volte è un po' accentratore, cerca sempre di dire che tutto quello che dice lui è tutto ok, ecco il dialogo che è sempre mancato, il disamore di tanti laziali, anche di gente che sinceramente che ha visto anche Viola, anche loro hanno un po' così, hanno un po' ceduto. E, sì, dai, c'è però anche il rischio, Guido, che la delusione, anche legittima magari, di tanti tifosi poi sia strumentalizzata da chi magari contesta Lotito da anni, da quando è arrivato per altri motivi che hanno poco a che fare con i risultati del campo, come viene condotta la società. Sono d'accordissimo, ci mancherebbe, se la protesta ci sarà deve essere civile, perché giusto così è importante che non degeneri, questo lo vorrei sottolineare più volte, ci mancherebbe altro. Io tante volte ho il termometro un po' della situazione, parlo con tanta gente che, ripeto, ha visto la Lazio di Viola e anche loro sono un po' disamorati, sai, quando è così è un peccato perché il patrimonio che ha la Lazio di tifosi è immenso. Basterebbe poco, io tante volte ho parlato anche con lui, ho cercato di fargli capire che a volte la gente basterebbe magari anche una pacca sulle spalle, magari certamente non una promessa, perché poi se non si mantiene è peggio, però ecco un sorriso in più, un qualcosa, a volte lui a volte è duro nei toni e magari, ripeto, basterebbe poco per ricominciare. Io spero che questa cosa che c'è stasera, sperando che tutto vada bene perché quella è la cosa più importante, possa magari riaprire un rapporto che negli ultimi mesi è veramente, se non c'è più, e questa è una cosa che fa male, anche perché io adesso vado allo stadio, sto pensando di battere il Sassuolo, perché se la Lazio batte il Sassuolo è a 4 punti dal sesto posto e magari invece così magari ci vai con qualche problema in più, perché stasera dovrebbe essere una bella serata di calcio e basta, e invece magari ci sarà qualche protesta di troppo. L'importante è che sia, ripeto, sempre civile. Sì, io non credo che una tifoseria che tiene vuoto uno stadio in occasione di una partita di Europa League e che, diciamo, lo riempie per contestare il suo presidente in una serata importante come questa, che può essere la gara col Sassuolo, faccia poi il bene della società, guarda, della squadra. Intanto ti sottolineo che c'è stata la prima occasione per la Juve, 11° minuto 0-0 Tevez, che ha impegnato terra Padelli, ma un minuto prima altro contropiede del Torino e Toro vicino al vantaggio. Prego, Guido. No, io dico, la cosa che ho scoperto in questi giorni, che è un po' strana, è che tantissimi tifosi della Lazio, sia quelli che bene o male non vedono sul buon occhio Lotito, o magari anche quelli che bene o male sono quelli che, insomma, dicono vabbè, la Lazio tutto sommato non sta andando male, ecco, tanta di questa gente, ma tanta è rimasta a casa, ossia c'è una terza componente che è curiosa, che tanti laziali non vengono più allo stadio, ecco, e questo è un altro aspetto che, vabbè, io vivo quotidianamente, magari chi non conosce la Lazio non lo può sapere. Sì, che è un aspetto incomprensibile per chi magari conosce poco l'ambiente romano, ne parlavamo anche prima con Vittorio Feltri, se torniamo indietro dei 25-30 anni e se vogliamo considerare che cosa è rimasto della Lazio di Cragnotti, al di là dei trofei vinti sul campo, è difficile non pensare che Lotito sia probabilmente il miglior presidente degli ultimi 30 anni per la Lazio, eppure è anche il più contestato, quello cui viene fatta una colpa che secondo me non esiste. esiste, cioè la colpa di non volerci rimettere decine di milioni di euro con il calcio, ma non si fanno discorsi molto diversi oggi, credo nemmeno nella Roma di Pallotta, di sicuro non si fanno a Milano con Toir, cioè non capisco qual è la colpa di Lotito. Vabbè, io ripeto, ci sono delle situazioni che magari dovrebbero essere discute più intensamente. Io adesso così in pochissimi secondi non posso, io ho detto, ripeto, un dialogo maggiore, cosa che lui assolutamente ha sempre rifiutato, e questa è una cosa che è una cosa strana. In fondo i tifosi hanno i tifosi sono stati sotto l'Agenzia delle Entrate quando aiutarono Lotito per prendere la Lazio, i tifosi della Lazio si sono anche messi in una certa situazione anche un po' delicata pur di aiutarlo. Poi è successo che diciamo negli ultimi 4-5 anni il salto di qualità non c'è più stato, ossia Lotito ha perso 3 treni preziosi, una volta quando eravamo a 2 punti dalla Juventus, a gennaio non ha comprato nessuno, la seconda sezione anche a gennaio con Reia, niente da fare, poi portò Vignaroli, una serie di cose che hanno fatto capire che la Lazio, il tifoso della Lazio non può più sognare. Poi mettiamoci pure il fatto che la Roma sta con Fievele, che ha un progetto, ecco, queste cose in questa città magari si sentono un po' di più. Sì, vedere che l'altro sta correndo, magari sogna lo scudetto, capito, questa e tu ti trovi a metà classifica. Mette timore al Laziale. Per chiudere, quanto sta pesando sulla squadra questo ambiente? Tu che conosci bene Reia, conosci bene lo spogliatoio. No, non credo, perché il tifoso laziale non fa sempre il suo dovere sugli spalti, non lascia mai solo la squadra, al di là di giovedì sera, perché questa situazione del Ludogorets, ripeto, è un po' strana, perché c'era questa benedetta partita stasera, altrimenti mi ricordo l'ultimo derby è stato qualcosa di fantastico, cioè, c'erano 40.000 laziali che hanno fatto una scenografia meravigliosa, e credo che insomma questo è l'amore che c'ha questo tifoso, che è un po' disamorato, diciamo questo, ecco, lui dovrebbe riaccendere qualche cosina in più, e spero che lo faccia, chissà, magari da lunedì, magari pensando che tutto sommato i tifosi pagano, e i tifosi poi, ripeto, anche di una certa età si sono disamorati, se lui pensasse questo forse si può ripartire, io lo spero vivamente che si possa ripartire tutti insieme. Grazie Guido. Grazie a voi. Grazie Guido De Angelis. Intanto Juventus-Milan di settimana prossima sarà senza Muntari, che questo pomeriggio è stato ammonito e squalificato, e sarà anche senza Vidal, che un minuto fa ha preso il cartellino giallo e a sua volta era diffidato. Siamo al quarto d'ora, ancora 0-0, ma è una partita abbastanza divertente. 8-0-0-24, 0-0-24, traffico. Oddio mio, oddio mio, gliela abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, mamma mia, è arrivato l'apoteosi sotto la curva nord, ti esiste. Tutti convocati. Ancora Toro pericoloso con Immobile, palla sull'esterno della rete, 18esimo minuto, 0-0, ma è una partita che presenta delle difficoltà per la Juventus, come del resto secondo me era anche abbastanza prevedibile. Enzo da Savona, Enzo, buon pomeriggio, anzi buonasera. Buonasera. Prego. Forza Toro innanzitutto, comunque a livello di squadre credo che oggettivamente non ci dovrebbe essere partita, però è un derby. Credo che il derby, rispetto a quello che ci ricordiamo di Ciccio Graziani, faceva emergere dei contenuti di giocatori che si equivalevano. La differenza oggi, dove c'è equivalenza, è in panchina, perché credo che mister Ventura assolutamente possa esprimere contenuti che possano essere uguali rispetto a quelli di Conte, per cui può essere la differenza lì. Sì, Ventura che sta presentando credo anche stasera tra l'altro un Toro molto ben organizzato, abbiamo visto una bella occasione per Tevez, ma abbiamo visto anche un paio di ripartenze in contropiede del Torino tutt'altro che banali, e credo che questo sarà un po' il tema di questa serata. Grazie Enzo, puoi dire che la Juve presa tecnicamente uno contro uno è superiore al Toro, è quasi banale. Andiamo a Sochi, c'è il tempo dei bilanci. Forza Cristo, 2:06:29, secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggler, sicuramente a medaglia, Armin Zöggler. Arianna, che sei l'ultimo giro. Dai Arianna, che l'argento si può fare. Arianna Fontana, argento. 2 45-20, il tempo da battere in diretta per passare al comando per Christophe Hinault, perché arriva, abbiamo una medaglia di bronzo, incredibile, bravo, impensabile, Ine. Con Christophe Hinault. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sfruttare il tuo sprint. Zushi Marianna, chiudi e lanciati. Zushi Marianna, è bronzo, seconda medaglia olimpica per Arianna Fontana. La Corea ha allargato molto. L'Italia è terza. Andiamo a bronzo anche in questa occasione. Comincia quindi questa staffetta mista. Buona nel quarto. E buona nel quinto. Alleluia. E l'Italia si prende la medaglia di bronzo. Sì! Sì! Ci siamo! Ci siamo! È la migliore Carolina Koster di sempre. Tempo di bilanci, Maria Pia Vals Beltran da Sochi, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Io provo a comunicare con voi, anche se ovviamente essendo al T-Shirt Stadium per la cerimonia di chiusura probabilmente non ci sentiremo benissimo. In questo momento Pyeongchang, quindi il prossimo comitato organizzatore dei giochi invernali che saranno in Corea nel 2018, sta effettuando la sua presentazione. Quindi c'è appena stato il passaggio di consegne con la bandiera olimpica che ha praticamente attraversato le mani dalla Russia fino alla Corea, passando per il presidente Thomas Bach del Comitato Olimpico Internazionale. È stata una cerimonia per il momento abbastanza semplice rispetto a quella che era stata quella di apertura, quindi molto meno fastosa, ma che sicuramente ha colpito all'emotività dei presenti. Lo stadio è pieno, tantissimi tifosi russi accorsi, la parte più simpatica è stata la presa in giro del meccanismo che non è funzionato nella cerimonia d'apertura, quando un cerchio non si era aperto dei cinque ovviamente cerchi olimpici, quindi dei ballerini hanno praticamente riproposto facendo una parodia di se stessi, quindi con un cerchio che non riusciva ad aprirsi, fino a che poi sono stati rappresentati tutti e cinque con un momento ovviamente di tripudio generale. Certo, oggi tra l'altro è stata la grande giornata della Russia, tripletta nella 50 km di fondo, vittoria anche nel bob, poi c'è stata la finale di hockey su ghiaccio che era la finale di Putin, ma l'ha vinta il Canada contro la Svezia per 3-0. Volevo chiederti che clima si è respirato oggi, visto che è giorno di bilanci a casa Italia, Italia che va via con 8 medaglie, va via anche con 8 quarti posti, di sicuro non ha vinto l'Olimpiade della Fortuna. Esatto, infatti il rammarico è comunque presente tra le mura di casa Italia. Il presidente del CONI Malagò ha cercato di tenere alto l'animo dei propri atleti fino alla fine, anche se ovviamente tirando le somme si può dire di essere andati meglio di Vancouver con 8 medaglie, ma diciamo che il risultato ottenuto nel 2010 non era stato sicuramente soddisfacente, ci si aspettava qualcosina di più. Si punta adesso tutto sulla Corea, quindi per andare anche a prendersi l'oro mancato in questa edizione dei giochi olimpici, con comunque buone speranze dal punto di vista degli atleti giovani che si sono visti nello snowboard, dove anche sono arrivati effettivamente un paio di quarti posti proprio ieri nel parallelo, ma con atleti che sono futuribili e quindi hanno occasione di rifarsi sul panorama internazionale nei prossimi giochi. C'è da dire che ovviamente su tutti sono spiccati comunque Arianna Fontana nello short track con le medaglie portate a casa per lei e Christophe Hinault con le due medaglie nello sci alpino. Sì, mi sembra che tirando una riga sotto tutto torniamo a casa con un 6 certamente per qualcuno, penso ad esempio ad Arianna Fontana, certamente una promozione piena, però complessivamente nel medagliere chiudiamo 22esimi, così in basso credo che l'Italia nelle Olimpiadi invernali non sia mai andata. Grazie Maria Pia. Grazie a voi, a presto. Grazie Maria Pia, ti lasciamo alla cerimonia finale, 24esimo, 0-0 intanto tra Juve e Toro. Gaetano da Padova, Gaetano. Sì, buonasera. Prego, buonasera. Io avevo chiamato su Mazzarri per parlare di sì. Mazzarri. Sono interista, ma per dire che Mazzarri non è un allenatore da prima fascia, è un buon allenatore da, insomma, da squadre che puntano a salvarsi, è un buon artigiano del calcio, insomma, ma lo ha dimostrato anche a Napoli, aveva una squadra per vincere uno scudetto, non l'ha fatto. Sì, a Napoli ha preso una squadra appena salita dalla B, però l'ha portata in Champions. Certo, l'ha portata in Champions, ma con uno squadrone. Artigiano di qualità, almeno questo. Sì, per carità, ma non di prima fascia, però per esempio non valorizza i giovani. Non so se vi ricordate a Napoli Edu Vargas, che insomma era arrivato perché sembrava un campionissimo, non ha fatto neanche una partita. Lo stesso nell'Inter, Icardi in panchina, il ragazzo lì croato in panchina, Botta in panchina, cioè, voglio dire, no? Allora, lui ha la sua coperta di Linus, che sono i suoi schemi consolidati, vecchi, che ormai tutti conoscono, ma non è un allenatore dell'Inter. Sì, c'è anche chi via SMS dice via Mazzarri subito, Donadoni in panchina nella prossima stagione. Secondo me giudizi troppo duri con Mazzarri e anche questa Inter, che pure oggi ha giocato male. Stramaccioni? Beh, insomma, io non so se aprendo un referendum sul ritorno di Stramaccioni lei possa trovare tanti che la pensano come lei. Grazie comunque Gaetano. 25 minuti 0-0 Torino tra Juve e Toro. Vi leggo velocemente anche il gruppo delle qualificazioni per Italia Euro 2016. L'Italia con la Croazia, la Norvegia, la Bulgaria, l'Azerbaigian e Malta. Ricordo che vanno agli europei le prime due e le terze fanno un playoff. Insomma, è praticamente impossibile restare fuori, anche se Prandelli ha detto che è un girone impegnativo, ma sarà opera del prossimo CT. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Filippo Aureggi e Pietro Lacorte, che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica prossima a partire dalle 17. Un saluto da Giovanni Capuano.